Il giusto cade 7 volte al giorno. Col sangue amaro e coi polmoni neri sorbisci una boccata di fumo tra un boccone e l'altro e i residui restano incastrati tra i denti, il solito fastidio di un'adolescenza povera in canna. Tracanni avidamente piccoli sorsi di Shiraz nuovo vitigno di pregio, poi schiocchi di scatto il massetere e i tiranti del collo come tirassi il collo a un pollo, stappandone un'altra col tirabusciò di lacchi nei solitari ritardi di vita. Alzandoti ti rimbocchi le maniche raggrinzite della saggezza e tiri un mezzo sospiro di sollievo dopo l'ultimo sorso concesso. Fai la cresta sulla logica degli accaduti e cedi ancora ad una tentazione accorata. Accurato nel riattaccar le bottone, cerchi le larghe intese solo perché rivedi come in sogno il pube basculante di una donna canzonata mentre sparecchi e risciacqui stoviglie bianco sporco ai bordi slaccati sbreccate. L'acquaio che gorgoglia riecheggia lo spauracchio di una mente temi riassettata a svanitoio. Al pan seccaio per domani asserbi tutti i pezzi che triturerà con la rigida fedeltà dello scapolo alla teoria degli avanzi. Deborda con forza dall'angolo ottuso della narice un vago matrimonio riparatore, ma sul nartece stizzita la gola raschia e con un colpo secco scatarri il rischio di marcio che certamente ne deriverebbe, sicché vedi, guardi, senti, impari, imprechi dal lancinante specchio, ormai sei vecchio, un vecchio innocuo, un vecchio babbione innocente, di nuovo si serra la mandibola dopo un respiro più grosso, col passo stanco e corto, a ferro di cavallo, divarichi 2 passi dopo cena per sgranchirti le gambe, per non andare a letto col boccone ritto in gola. Chi ebbe Dio per amante ebbe certo a patire men che lievi i malanni. Chi ebbe Dio per amante ebbe a patire ben più lievi affanni, accorati affanni in battere, accordati accenti in levare, che la potenza orgasmica rarefatta si intensifica, accappona la pelle ovatta, le orecchie, i tappi di cera per dimenticare l'accaduto incauto, la spirinetta tra gli incisivi macchiati, l'angustia della stanza calda. Il fumo provoca rischi di infarto al miocardio, danno luogo a un'incisiva logica denegatrice, abluzioni, abnegazioni, oboli, obitori.